10 e 25, 2 agosto 1980, 2 agosto 2020. La strage alla stazione di Bologna, 40 anni dopo. Già dalle prime ore dopo la strage si iniziò a indicare la matrice fascista della bomba alla stazione di Bologna, come le altre che avevano insanguinato il paese a partire dalla strage di Piazza Fontana a Milano il 12 dicembre 1969. Di cosa fosse il neofascismo italiano e di come si fosse trasformato nel corso degli anni 70, ne abbiamo parlato con Davide Conti, storico e consulente della Procura di Bologna per l'inchiesta sulla strage del 2 agosto 1980, che quest'anno nel 2020 ha pubblicato per Einaudi L'Italia di Piazza Fontana alle origini della crisi repubblicana. Davide Conti ha lavorato a lungo sul fascismo e sul neofascismo italiano, evidenziando le continuità fra regime mussoliniano e Stato repubblicano. Il movimento neofascista cambia alla fine degli anni 70 perché muta il quadro politico nazionale. L'Italia sta uscendo dagli anni più intensi, bui della strategia della tensione. Il contesto in cui questa è maturata si è progressivamente modificato. Non siamo più nel 1969 con l'irruzione nella scena pubblica, nella sfera pubblica del movimento studentesco e giovanile del 68 prima e soprattutto del movimento operaio e sindacale poi dell'autunno caldo. Siamo in una fase in cui è iniziato un riflusso sostanziale della dimensione politica anche nel nostro paese e il neofascismo attacca, aggredisce e il quadro democratico e il contesto materiale, che comunque è un contesto ancora in fermento rispetto alla mobilitazione, ma soprattutto rispetto alla crescita delle forze della sinistra in Parlamento e nella società, e dunque muta la sua struttura. Non troviamo più organizzazioni come Ordine Nuovo, come Avanguardia Nazionale, ma forme molto meno gerarchicamente organizzate, molto meno strutturate da questo punto di vista, ma altrettanto omicidiali sul piano operativo. I NAR si macchieranno di decine di omicidi, saranno poi responsabili della strage del 2 agosto del 1980 alla stazione di Bologna, saranno protagonisti di una serie di attentati al Consiglio Superiore della Magistratura, al carcere di Regina Coeli a Roma, allo stesso Campidoglio, sempre nella capitale, e dunque strutturano questa loro tipologia di azione in una forma fluida, fatta di piccoli gruppi, piccole cellule, che compiono un certo numero di attentati, danno una certa quantità alla loro misura politica attraverso l'azione e danno in corrispondenza a questa una certa qualità, perché mirano a colpire anche uomini delle istituzioni. Pensiamo all'omicidio del giudice Amato, pensiamo a tanti omicidi mirati che vengono compiuti in quel periodo. I nuclei armati rivoluzionari nascono alla fine degli anni 70 e si strutturano in piccole cellule, nascono sostanzialmente a Roma attraverso l'azione, l'operatività di personaggi come Francesca Mambro, Giuseppe Valerio Fioravanti, Ciavardini, Aleandri, lo stesso Alibrandi. Sono piccoli gruppi di neofascisti che organizzano, si strutturano anche in una dimensione di rottura con il vecchio neofascismo, il neofascismo degli anni 60 e 70, si strutturano come gruppi operativi che organizzano la destabilizzazione attraverso le loro attività politiche, le loro azioni armate, organizzano la destabilizzazione, tentano di inserirsi in un contesto di destabilizzazione del quadro politico-democratico italiano, che ricordiamo alla fine degli anni 70, a partire dalla fine degli anni 70, è sostanzialmente scosso alle sue fondamenta dal sequestro e dall'omicidio di Aldo Moro e da una crisi politica che è addirittura precedente alla proposta di incontro politico-governativo tra la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, di cui appunto Moro era stato il regista. Dentro questa crisi di lungo periodo della Repubblica si innestano questi gruppi che attraverso attività terroristiche organizzano una destabilizzazione del quadro politico generale. La parola sensibile e vaga come stelle dell'Orsa. Francesca Mambro, protagonista delle versioni nera degli anni 70, è

Io potrei essere considerato, caso per caso, fiancheggiatore di autonomia operaia e del terrorismo palestinese, agente del servizio americano sovietico, emissario di questo o di quel partito. Lo scrive nell'estate 1981 un potentissimo funzionario di polizia, Federico Umberto D'Amato, rivolgendosi all'allora ministro dell'interno Viginio Regnoni, dopo l'esplosione dello scandalo P2 a cui D'Amato era affiliato. Federico Umberto D'Amato nasce a Marsiglia il 4 giugno 1919 da padre napoletano, poliziotto pure lui, e madre piemontese. Quando scoppia la Seconda Guerra Mondiale si dà malato e solo alla vigilia dell'8 settembre 1943 si arruola in polizia. Vanta di aver catturato più nazisti dei servizi alleati dislocati in Italia e nel giugno del 1944 conosce James Jesus Angleton, l'uomo dell'OSS che incrocia anche Licio Gelli. I servigi resi all'intelligence a stelle strisce valgono ad Amato il conferimento di un'alta onorificenza, la Bronze Star, a cui si aggiunge anni dopo la Légion d'honneur del governo francese. All'inizio degli anni 60 il suo prestigio cresce al punto che viene designato dal ministro dell'interno Paolo Emilio Taviani rappresentante italiano presso la NATO. Chiusa la stagione della caccia ai nazisti con la fine del conflitto, Federico Umberto D'Amato si dedica a una nuova missione, l'anticomunismo. Nel 1950, a 31 anni, viene assegnato all'ufficio politico della Questura di Roma e trasforma in pratica di vita tre parole che Angleton, con cui è ancora in contatto, gli ha detto: conoscere è potere. Lo tiene bene a mente quando, alla fine degli anni 50, arriva all'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno. È una divisione del Viminale creata nel 1948 raccogliendo l'eredità dell'OVRA, la polizia politica del ventennio fascista, e che fa del dossieraggio il suo punto di forza estrema. Politici non solo comunisti, ma di tutti i partiti, imprenditori, intellettuali, artisti, giornalisti e magistrati. Tutti finiscono nel mirino del cosiddetto metodo D'Amato e l'ufficio affari riservati, che si trasforma da organo di polizia in un vero e proprio apparato di intelligence per quanto ufficioso, mette sotto osservazione addirittura gli uomini del SID, il servizio segreto militare, con dotazioni tecnologiche all'avanguardia per l'epoca. D'Amato dà ordine di creare legami con i leader dei gruppi extraparlamentari di sinistra e di destra e fa condurre campagne nel pieno rispetto delle direttive americane dell'operazione Chaos, quelle tali per cui sia difficile capire chi sta facendo cosa e si scarica volentieri la responsabilità di attività estremistiche sulla sinistra, come dimostra un'altra operazione, stavolta italiana, conosciuta con il nome di Manifesti Cinesi. Fino al 1974 la struttura di D'Amato entra, e non solo per osservare, in pezzi di storia come la latitanza del mafioso corleonese Luciano Liggio, la strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1979 contribuendo a indirizzare le indagini verso gli anarchici, poi risultati del tutto estranei, e un'altra strage, quella avvenuta a Brescia, in Piazza della Loggia, il 28 maggio 1974. A quel punto gli abusi dell'ufficio affari riservati sono così dilaganti che viene sciolto ed Amato destinato a comandare la polizia di frontiera. Un ruolo all'apparenza sottodimensionato rispetto alle competenze e al prestigio del super poliziotto segreto, ma solo all'apparenza appunto, perché da quella posizione D'Amato può sapere tutto di chi entra ed esce dai confini italiani, latitanti in primis. Lo dimostra ciò che dice quando viene convocato dalla commissione P2 che gli chiede conto dei movimenti di un antiquario e sedicente ristoratore toscano, Marco Ceruti, intestatario di rapporti bancari in Svizzera su cui affluiscono i soldi, o almeno una parte dei soldi, del conto Bologna, in ipotesi usati da Licio Gelli per il sostegno finanziario alla strage alla stazione. Ho un fascicolo su questo signore, come per tutti coloro che sono segnalati per provvedimenti di frontiera, perché dal mio ufficio dipendono tutti gli uffici di frontiera. A questa rubrica, che ha un volume fisso che si cambia ogni 6 mesi, vengono aggiunti le varianti giorno per giorno, come nel caso di questo signore. Mi chiamai la pratica perché se ne parlava sui giornali. Circa la mancata notificazione del ritiro del suo passaporto, vorrei rilevare che lo ritira la questura, non il mio ufficio. Quando Angleton muore, D'Amato rilascia un'intervista al settimanale Il Borghese, diretto dal giornalista ed ex parlamentare missino Mario Tedeschi. È il 12 luglio 1987 e l'articolo si intitola Il favoloso Angleton. Qui D'Amato rievoca le gloriose operazioni oltre la linea gotica che portarono anche al recupero di Junio Valerio Borghese, comandante della decima MAS e futuro aspirante golpista nel dicembre del 1970. Federico Umberto D'Amato, divenuto prefetto, muore a Roma il 1 luglio 1996 a 77 anni e di lui si ricordano i rapporti con personaggi condannati per i depistaggi e le indagini sulla strage di Bologna. Oltre a Licio Gelli ci sono anche il consulente del direttore del SISMI Francesco Pazienza e gli ufficiali dei servizi militari, il generale generale Pietro Musumeci e il colonnello Belmonte. Del resto, lui stesso, rivolgendosi a Rognoni, aveva scritto: «Non c'è stato argomento di rilevanza di cui non sia stato chiamato a occuparmi». Le domande che rimbalzano ogni anno in questi giorni d'agosto in tutta Italia sono tante. Chi ha messo la bomba? Perché proprio a Bologna? In qualche modo la strage alla stazione avrebbe potuto essere evitata? Queste stesse domande le abbiamo poste alla storica dell'Università di Bologna, Cinzia Venturoli, che ha appena dato alle stampe il libro Storia di una bomba, Bologna 2 agosto 1980, La strage, i processi, la memoria, edito da Castelvecchi. Rispetto alla strage avvenuta alla stazione a Bologna il 2 agosto 1980, possiamo anche usare la definizione di strage annunciata, in questo senso. Da qualche tempo all'interno degli ambienti neofascisti circolava l'informazione e l'ipotesi di fare un attentato molto, molto grande all'inizio di agosto. Soprattutto ne diede notizia un detenuto, Luigi Presilio Vettore, che parlando col giudice Tamburrino, giudice di sorveglianza, fece appunto questa informazione. Il giudice passò l'informazione a chi di dovere, cioè ai servizi, ma questa notizia poi cadde così nel nulla, nel senso che non vi è traccia di una qualsiasi possibile ricerca o azione messa in campo per verificare questa, che poteva essere una notizia vera come una notizia falsa. Quindi questa, insomma, è la cosa più eclatante, ma come dicevo c'era anche il giudice Amato, che era stato ucciso dai NAR qualche tempo prima della strage, aveva rilevato, grazie alle sue indagini, questa possibilità, questa ipotesi di un attentato molto, molto grande, insomma molto, molto forte. Ci si può domandare come mai proprio Bologna sia stata colpita da quella che è stato l'attentato più grave avvenuto in Italia. Abbiamo delle ipotesi, perché non abbiamo documenti o testimonianze, diciamo, da parte delle persone condannate, e quindi possiamo fare delle ipotesi. La prima è logistica: Bologna è un nodo ferroviario, quindi per spostarsi da nord a sud, a est a ovest della nostra penisola, e anche per andare verso, diciamo, i paesi confinanti, bisogna passare da Bologna, e quindi il primo sabato di agosto e il primo weekend di agosto le persone si spostavano naturalmente per le ferie, per le vacanze. In quegli anni quasi tutti facevano le ferie in agosto, ecco che naturalmente Bologna era la stazione più frequentata, proprio perché aveva questa funzione di scambio. Infatti, se noi leggiamo le biografie delle persone che sono state uccise, anche dei feriti, troveremo moltissime persone che stavano aspettando delle coincidenze, proprio perché era necessario molto spesso cambiare cambiare il treno a Bologna. L'altra ipotesi che viene in qualche modo anche adombrata in alcuni documenti della CIA, in alcuni rapporti della CIA, è che se questo attentato aveva, come altri attentati, l'idea di colpire la sinistra o il Partito Comunista, Bologna era un simbolo molto forte, Bologna era il simbolo del governo delle sinistre, e quindi Bologna, se avesse reagito in modo scomposto, sicuramente avrebbe in qualche modo aumentato l'effetto che si voleva ottenere. Quindi diciamo sono ipotesi che hanno una loro fondatezza storica, storiografica, ma naturalmente non abbiamo fonti precise che ce le mostrino. Per quanto riguarda il lavoro degli storici rispetto alla strage di Bologna, beh, diciamo che siamo ancora un po' agli albori, nonostante siano passati 40 anni. Ci sono numerosi testi, ma sono soprattutto scritti da giornalisti. Naturalmente questo è molto importante, molto utile, ma l'occhio del giornalista è diverso dall'occhio dello storico, evidentemente. Quindi ancora la storiografia un pochino deve lavorare su questi temi. Mentre ci sono più volumi sulle stragi precedenti, la strage di Bologna in effetti è ancora poco studiata. Uscirà un mio libro, se posso dirlo, alla fine di questo mese. Ne usciranno altri, uscirà un libro di uno dei magistrati che si è occupato di questo tema, uscirà un libro di Scardo, un giornalista che si è occupato di questi temi. Quindi diciamo che piano piano qualcosa stiamo producendo. Chiaro che la riapertura, l'apertura di un nuovo processo legato alla strage di Bologna, che è un processo che ha avuto il primo grado di giudizio poco prima, diciamo, del lockdown, e che dovrebbe invece ora vedere l'apertura anche per quello che riguarda i finanziatori e i mandanti, gli ispiratori politici, diciamo, in qualche modo, e attira molto l'attenzione sull'attualità. È necessario però andare appunto a ritrovare le radici, a scoprire, a riscoprire e studiare la strage, sia per quanto riguarda le vicende giudiziarie, ma anche per quanto riguarda il peso che questa strage ha avuto sulla politica o sulla società italiana. Partirono in due ed erano abbastanza, un pianoforte, una chitarra e molta fantasia, e fu a Bologna che scoppiò la prima bomba, tra una festa e una piadina di periferie, e bomba o non bomba, noi arriveremo a Roma, malgrado voi, a Sasso Marconi, incontrammo una ragazza che viveva sdraiata sull'orlo di una piazza. Noi le dissemmo: vieni, dolce sarà la strada. Lei sfogliò il fiore e poi ci disse no. Ma bomba o non bomba, noi arriveremo a Roma, malgrado voi, a Rocco Pilaccio ci venne incontro un vecchio, lo sguardo profondo e un fazzoletto al collo, ci disse: ragazzi in campana qui non vi lasceranno andare, hanno chiamato della bomba alla stazione. Non è solo su chi abbia materialmente collocato l'ordigno, ma anche sui responsabili e i mandanti. Misteri, o meglio, segreti sulle indagini coperti da una coltre di fumo. Una coltre che è stata sollevata anche da apparati dello Stato in un complesso sistema che ci viene schematizzato da Andrea Speranzoni, avvocato di parte civile. Possiamo sinteticamente dire strategia della tensione come formula generale. A me pare più corretto parlare di un patto di potere criminale che ha colpito la città di Bologna, che partiva dall'interno delle istituzioni repubblicane non fedeli alla Costituzione repubblicana e che si è avvalso di manovalanza neofascista. Il mondo neofascista, sono emerse tante dichiarazioni di stessi ex appartenenti a quel mondo e documenti e dati probatori anche nel corso dell'ultimo processo, mondo neofascista che era talvolta coincidente con parti dei servizi segreti. Molte volte abbiamo riscontrato che elementi che appartenevano alle organizzazioni di estrema destra del tempo lavoravano come informatori per le istituzioni repubblicane. Cosa avveniva dentro quest'ambito lo stiamo scoprendo adesso, perché non era un'attività chiaramente informativa finalizzata alla prevenzione di attentati, ma finalizzata alla loro gestione. Cioè, noi riteniamo che alcuni poteri dello Stato, deputati in qualche modo istituzionalmente competenti a prevenire fatti come quello del 2 agosto 80, in realtà questa attività di prevenzione non solo non l'abbiano fatta, ma quando hanno saputo della programmazione, della progettazione di determinati fatti gravissimi, hanno addirittura coperto e, come dire, sono stati dei facilitatori indiretti di quegli eventi. Quindi siamo di fronte a un fenomeno di deviazione strutturale all'interno delle istituzioni repubblicane. Con questo stiamo facendo i conti. Bye. 10 e 25, 2 agosto 1980, 2 agosto 2020, la strage alla stazione di Bologna 40 anni dopo è uno speciale radiofonico curato da Alessandro Canella, Jacopo Frei, Alessia Masini, Olga Massari, Deborah Sannia e Antonella Beccaria.